X30, il cavo nuovo me lo metto sulla Game Master. Oh Claudio, guardalo Claudio. Quindi se ti serve il cavo fatelo arrivare da fuori, perché tanto qua è sempre la stessa la ragione, no? E se dici cosa si lamentano? Sì, c'è una ricarica esagerata, ma a quel punto come la mettersi d'accordo un paio di persone, prendono la matassa da 100 metri che te le danno molto ma molto più scontati e poi si dividono le spese e ce l'hai per sempre. E infatti è così. E ce l'ho una calata di 155, mi rilascio quello nella X30. Tutto dipende da quanti metri sono, più lungo sarà il cavo e maggiore sarà l'attenuazione. Dipende dalle condizioni anche di installazione. Se nessuno ti dice niente del cavo, non è... No, con un attimino a me il telefono. Ci metti quello buono. Se invece sei in emergenza e ci sono rotture di scatole, sei costretto a utilizzare quello che c'hai, è ovvio. Io preferirei sempre dei cavi grossi, super schermati. Però poi ognuno sa anche delle sue tasche, non è che c'è da dire cosa. Tutto è lì, sempre dipende dalle distanze e da quello che si vuole fare. Io me lo cablo tutto in fibra ottica, la faccia vostra. Oh yeah. E saranno una quindicina di metri, Gianfra. Ma dato che tu non devi neanche trasmettere, potrebbe anche andare bene. Capito? L'importante è non andare oltre. Il coso invece, sì, la fibra ottica si può usare per la trasmissione dati essenzialmente, dove ci sono fonti di disturbo, però tieni presente che in quel caso di norma il trasmettitore è collocato sotto l'antenna e tutto l'altro va a sostituire praticamente il classico 3G45 con dei connettori particolari che si assomigliano molto a quelli SF ad avvitatura praticamente. Il cavo a fibra ottica in realtà è finissimo, molto molto fino, tutto quello che si vede intorno, spesso la protezione, perché non si deve, non c'ha dei limiti di piegatura, ecco. Noi quando lo usiamo infatti facciamo, e ne avanza, facciamo dei cerchietti molto ampi e lo fermiamo, poi controlliamo se arriva luce o meno. Sì, no, sto scherzando naturalmente. Adesso gli impianti, diciamo, del futuro, quelli già la fraccarota, iniziando, gli impianti parliamo di televisione, ricezione, però non trasmissione, stanno utilizzando già la fibra ottica. Se no me la faccio wireless, Gianfra, senza fili. Ma vabbè, per noi rimaniamo a terra. Impariamo a usare quello che ci abbiamo essenzialmente, che è la cosa più importante di tutti. E niente, poi sapete cosa vi dico, che tra poco me ne vado a prepararmi qualche bel sughetto, oggi è domenica e bisogna un po' rimpizzarsi. Ci sono già pronti i sughetti, come faccio io, quei barattoli al pesto rosso, alla pesto alla genovese, li prendi, li scaldi e ce li metti in mezzo, 5 minuti e stai mangiando alla grande. No, il sugo me lo faccio io. Per me è lo stesso. Se vuoi mangiare in fretta, non sai quante volte io vado a prendere i pasti già pronti, me li porto a casa e me li mangio. Cibo killer. Ne parliamo tra 10 anni, quando lo stomaco inizia a bruciare come se dentro ci avesse un vulcano. Tra 10 anni ci sono anche trapianti di stomaco, vai in farmacia e te lo danno, te lo iniettano in vena. Vabbè, così chi si ne affutti. Cibo killer. E dillo a Natalino, dillo, che lui ha passato brutti momenti. Gianfra, tra 10 anni ti fanno, vai in farmacia, ti fanno la puntura e ti iniettano lo stomaco liquido e poi ti cresce dentro. Più che altro tra 10 anni ti fanno la puntura e ti mandano all'altro mondo, perché siamo in troppi su questo pianeta. Dopo che ne hanno ammazzato 4-5 miliardi, parlo non adesso, ancora non fa. Vabbè, parliamo d'altro. Comunque. Sì. Ascolta, tu la vuoi mettere, non vuol dire che stiamo parlando sempre del Torino, diciamo così, non del non di metterla dove l'ho visto io col palo nudo o col calvo. No, professore, lo metto lì, però c'è un palo che può salire a 6 metri, magari non lo faccio salire a 6 metri, però provvisorio lo metto lì, poi siccome mi devo andare, anzi no, non che non venga lui, c'ho quel traliceto dietro e lo metto dietro. C'era anche Marco l'altro giorno, mi ha dato dei consigli eccetera eccetera. Vabbè, allora fai così, poi vediamo cosa succede, se si riesce a guadagnare quel pochino almeno per il Limbara. Guarda, dell'Imbara secondo me non ci riesco, a meno che non sono fortunato come te, che tu hai trovato un cunicolo, le gallerie, cosa hai trovato, qualche passaggio, qualche vigna, sei passato vicino, che hanno toccato il cucuzzo della montagna, io sicuramente avrò difficoltà, comunque mai dire mai, dai. No, dell'Imbara qua rifà, con un buon segnale, ti dirò, quando è proprio tutto che non c'è questo tempo un po' strano, se prendi il gommino e ci metti su una di quelle antenne un po' più lunghe, non sempre a gommino, però quelle che hanno un piccolo guadagno in più, io salgo le scale su ad altezza del tetto, che quanto sarà, 5 metri, 6 metri a terra, premo e il ponte mi risponde. Guarda, secondo me è più facile che io apra il ponte della Corsica, quello di Aiace, poi c'è un altro pure, non mi ricordo dove sei, ho letto a Corte, vabbè, Corte è più in alto di Aiace, perché Aiace non è molto in alto, e sono sicuro che io riesco a aprirlo quello lì, non ci credo, perché io non la vedo la Corsica. Ma, oddio, non è un altro, quello là che sentiamo è 900 metri appena, non so se è poco, ma sono abbastanza per arrivare qua. A me arriva a fondo scala. E allora non è ad Aiace, perché Aiace è sul livello del mare, poi c'è Corte, no, io la conosco bene la Corsica, devi salire su verso Corte, alla Rezzonica, quelle zone lì per avere quell'altezza lì. Probabilmente hanno messo volgarmente Aiace, però Aiace è a terra. Dico Aiace per dire, che ne so, Sassari, poi c'è Sassari periferia, Sassari bassa, Monte Rosello, ma è generica la cosa, capito? Quindi io ho guardato un coso lì dei francesi ed è una zona un po' particolare, comunque c'è l'altezza e mi dà, infatti qua lo faccio sentire fondo su scala su questo, sì. C'è questa specie di pri alla fine con potenza bassa anche, transizioni, quindi quanto saranno? 5 watt. Aspetta, il sito è piccolissimo, l'ho stampato ancora più piccolo dalla pagina questo. Aspetta, avevo c'è scritto Aiaccio, il Monte Lerno ce n'è uno, anche Monte Lerno è più alto della Corsica, sono 2700 metri. E invece il link, lo senti il link nazionale? Zafra, non ho provato niente, ti ripeto, ho fatto le prove così l'altro giorno con te, poi c'erano Claudio, Walter, Marco, eccetera. E non ho fatto niente con quell'antennina, non pretendo ancora di fare niente. Appena piatto l'altra antenna mi dirai tu le cose, le direttive, tu e anche gli altri naturalmente, e vediamo un pochettino, vediamo dove riesco ad arrivare. Allora, il link nazionale dove era finito, ce lo siamo mangiati, vediamo se è questo, sì, è a 431 237.5, se te lo scrivi 431 237.5, almeno per vedere se arriva, perché se non arriva quello è drammatico, e questo dovrebbe essere a Villanova Montaleone. Sì, mi sembra che l'avevi aperto tu col portatilino quando sei venuto a me in officina, se non sbaglio. No, in officina era il forse sì, poco, non lo so, se ci vuoi provare me lo dici e io ti premo il pulsante, non faccio chiamata, che magari poi qualcuno mi risponde, mi tocca chiedere magari un rapporto, non mi piace. Aspetta, accendo, ti do il confermo, non lo so convivere. Tu Natali, volevo dire, lo senti? Natalino, cosa stai girando il suo? Mi sto accingendo a cucinare, Gianfra, vi devo lasciare, ci sentiamo stasera al limite, dai, se coincide. E allora accendi il fuoco anche per me. Mi verrebbe un po' male, mi tocca venire lì a accenderlo. Comunque Natali, ti ho detto, se da lì lo senti il ponte lì di Villanova, il link nazionale. Lo sentivo, adesso non lo so se è attivo. Sì, certo che è attivo. E allora già lo sento, bisogna che mi metta in ascolto, se è che adesso ce l'ho spento. Poco fa c'era gente sul 7 Alfa. Ascolto quello, ascolto l'R0. Allora sta andando bene l'antenna, dai. Vabbè, l'R7 Alfa è qua davanti, e ce l'ho in ottica. Quindi arriva a 9.40. Ma a che punto sei, Robè? È acceso, sì, collegato alla spina, acceso il fuoco. Aspetta un attimino, 431, 237, adesso 235, non so se attacca. 237.5. Esatto, là. C'è una propagazione da paura in FM. E parli con Muro, parli. Ciao Gianfranco. Ho sentito un po' distorto perché era un FM, mi è sembrato Antonello, mentre quelli che stanno parlando mi sembrano arabi, cioè così a prima acchito uno ha risposto, mi è sembrato un arabo un po'. Buongiorno comunque, bene scucciti. Sì, buongiorno Antonello, già sei tu allora. Robè, allora. Prova già fa. Ehi, dimmi Roberto. Vabbè. Roberto. Cucù. Aspetta, prova a parlare, ero tutto confuso qua, tra voi facciamo. Non ho capito la mazza. Posso andare là, ti do due colpi importanti. Prova, dai. Sì, sì, a Puglia. Quindi ti sta arrivando. Prova di nuovo perché l'ha portato sul secondo ricevitore. Prova un po' che poi più centrato. Sì, sì, va bene, dai. Vabbè, lì ci siete telefonando bene tanto voi. Ma di radio o di segnale? Sì, di radio per il segnale. Sto usando l'altro fratello. Sì, il segnale è fortissimo, la radio è pure troppo potente. Segnale sempre solito, 30, 35, quant'è? 35. Superi 9.30 qua, là. Va bene, ok. Te la parerò un giro, va bene così. Non sto provando l'altra radio. Ok. Comunque ho trovato delle cose riguardo del discorso che stavi cercando tu ieri, là qualcosina c'è da quella ditta dove abbiamo preso il 60 e che ho preso la 7.000. C'è qualcosa di buono qui. Non so se ti interessano, ci sono sia Icom che IAESU e che Kenwood. La base o... Cioè, sia la base è quello che è una via di mezzo, dai, un po' più piccolo del coso, una via di mezzo tra un veicolare e un base. Vabbè, vediamo un po' se c'è qualcosa. Vediamo un po' se c'è qualcosa. Va bene, quindi va bene, lascio tutto così, allora vediamo un po' aumentando la potenza se c'è il segnale, va bene. Guarda, stai attento, pensiamo a 10 watt, così sale il segnale, va meglio. Sì, è salito, però per un attimo c'aveva un ronzio fortissimo. Per un attimo un ronzio fortissimo, vabbè, forse come ho comandato. Adesso non ce n'è ronzio. No, adesso va bene. 35 ci arriva, ora più basso. No, 35 è fisso adesso. Va bene, ok, avanti Gianfranco, riprendi lei. Quindi che stiamo rischiando, mi sto uccidendo adesso. Io vi lascio perché mi aspettano i fornelli. Ciao a tutti, ci sentiamo stasera, come al solito. Pace e bene a tutti. Sì, ciao Gianfranco, buon pranzo e buon tutto. Vai, Clara. Ciao. ciao Gianfranco, fate cuccia belle e ci aggiorniamo stasera se coincide, se ne ho voglia, sono pazienza, ok, ciao ciao. Ah, comunque c'è bello il 910H della Icom, veramente bello, non so se lo conosci. No, non lo conosco, ne ho avuto tre, non lo conosco, non c'è nessuna radio che non conosco, Roberto, sappilo. 910H io ne ho avuto due, poi avevo preso il terzo e poi l'avevo venduto, perché uno mi ha bruciato il fulmine, ho preso il secondo e avevo passato per comprare due gemellini, 275H, 475H per separarli, e poi ho venduto anche quelli, avrei preso nuovamente il 910H e poi ho venduto il nuovo 910H. Poi c'è, dalla Chemodo c'è il D710. Il 710 sì, ma no, non mi piace, poi c'è il 790 che ho avuto, no, mi piace lo stesso, devo trovare un 275H, io non c'è niente da fare, 275H e per le VHF ce n'è in abbondanza. Poi ce n'è uno a buon prezzo che lo sta dando a 200 euro, il 211 della Icom, è bellino, 200 euro lo sta vendendo questo. Non è base. No, no, base è molto simile a quello del 711, si assomiglia a un bel, solo che c'ha due display anziché uno. A mio avviso c'è i tuni, se non c'è i tuni non me ne faccio niente, Roberto. Non avere i tuni ce l'ho a casa, il 711. Lo stai usando tu, quindi, capito? Io non mi servono i tuni, qualche ce li ho su questo che sto usando, ma ne voglio un altro. No, questo non ha tuni. Poi c'è il 790, 600 euro, nuovo nuovo. No, ma 600 euro, no. Con 400 euro trovo 275H con i tuni, ma manca paragone con 790. Oh, questo 910, a te non ti piace? Secondo me è un bel apparecchio. Molto, molto moderno come linea, nuovo nuovo. Sì, no, non ho più neanche quello. No, appunto, a me non mi piace, no. C'è delle cose che non mi interessano, capito? Mi piace di più digitale, mi non abbiate, io voglio analogico, analogico, analogico, capito? 275H, 475H, sono analogici, molto facili da usare, non hanno problemi, tutto qua. Poi c'è un bel veicolare di quelli cinesi, bello, ti posso dire, veramente bello, questo te lo regalo lui sempre, QYT si chiama, c'ha le VLU, questo è un buon prezzo, 60 euro, di quelli ultimissima generazione, con microfono con la tastierina, bello, non è una cagata. Sì, ma è sempre veicolare, Roberto, è sempre veicolare, non è mai qualcosa di più performante, capito? È veicolare, tutto qua. Sì, sì, no, ma dico per tenere le macchine, è carino, mi sembra lo Iaesu, l'imitazione dello Iaesu, quello che c'ha Marco, carino, molto, un bel display, grande, due manopole, è proprio funzionale al massimo, 60 euro regalato. Vabbè, dai, adesso vediamo, ho messo anche in moto mio padrino, vediamo se mi trova qualcosa lui, un altro, cioè, vediamo, ho bisogno di un gas, no, un gas io non ne ho più, voi, non ne ho più, tutti venduti. Tenermene una, invece ho fatto una stronzata di darli tutti. Va bene, va bene. Poi peccato sono venuta perché la stava cercando un amico, questa Sufa Pellet Hydro della Extra Flame, che è grande marca, costruita in Italia, hanno venduto a 500 euro a Sassari, questo era un affarone idro. No, l'ho presa nuova, vabbè, presa nuova, il genere mio fratello vende stufe, te l'ho detto, sono l'azienda di produttore, se la Relaina in comfort, quella lì, Arena, ma presa montata, ce l'ho già, già montata. Abbiamo fatto staccato la caldaia e ho fatto mettere quella idro, abbiamo già fatto l'impianto, non si può stare la sera. Non passo zero, non passo zero. Neanche un sacco al giorno sto consumando, cazzo. Il mese scorso mi è costato 400 euro di gas, quindi la caldaia l'ho staccata, sto andando con la stufa idro. Bellissimo impianto, poi non si può nessun nuovo, nuovo, non ci può mettere la mano. Sì, sì, sulla macchina con la calino qua. Non so, io ho sentito a te a Gianfranco e basta. E Ehi, certo, devo uscire a fare qualcosa. Dai, ci sentiamo più tardi, Clara. Saluto anche qua gli eventuali amici sul canale 10, se c'è qualcuno. Poi, se stasera dobbiamo fare prove su altre parti, me lo dici, Clara, ci mettiamo a corso. Noi, come vi dico, la sera stiamo spostando un po' i 10 metri, stiamo spostando un po' il 2 nuvole. Qualche prova la stiamo facendo, giusto così. Non è che si può stare sempre con la... Stasera c'è anche la Juventus, quindi il mio collega sicuramente sarà impegnato con la Juve. Va bene, dai, rimani in ascolto anch'io, faccio qualche cosetta, ciao a tutti. Quindi va bene, mi confermi che va bene la radio, non sto tanto 140, l'ho messo spostando dall'altra parte perché ho messo in mezzo l'amplificatore HF, quindi mi serve più spazio. Penso che avrei sbagliato qualcosa, ma se mi stai dicendo che va bene, lascio tutto così. Ma che radio è che sta utilizzando? Il 140 ti ho detto. No, pensavo fosse il 430. Sì, diciamo non è come la solita tua, un pochettino più strozzata arrivare, ma è chiara, è pulita. Diciamo non è eccellente, ma già va bene, è comprensibilissimo. Oh, Paolo! Non ha cambiato niente, questo è l'MC60, vabbè. Anche ieri la stessa cosa, non è la tua solita radio, io non tocco niente, questo è l'MC60 con 140, basta. Ma ti stai aiutando con qualcosa, non sei pulito, quello che ti voglio dire. Piera, buongiorno a tutti. Non so, non mi sto aiutando con niente io, lineare spento. Cos'hai detto, salve, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. C'ha ragione, non è limpida, nitida come la tua solita radio, si sente che c'è un po' di compressione, capito? Bracchiato un pochettino. Non vedo. Radio pulita. Ehi, vabbè, ce ne sono tanti che escono con le radio sporche. Non si può uscire sempre con la roba pulita, ma bisogna mettere anche la matrice. L'importante è che si sente e che sta bene. Poi se non è la mia solita radio, io non ho fatto niente. Forse perché sono un po' rauco, un po'. Non sono in forma. Vabbè, dunque. Cos'hai detto, se lui ti ha soprammodulato Franco la sorsa? Cos'hai detto? Vabbè, io qua sono all'Iulio. Vabbè, io vi lascio, dai, ciao Franco, ciao Saverio, ciao Claudio. E si è bucato il palloncino, non è niente, va, porta la mamma. Che non è la tua solita radio pulita, cosa, però c'è da contare che non si può avere neanche la moto piena, la moglie ubriaca. Ieri mi ho fatto un passaggio e arrivavo in Santiago 7. Ora addirittura oggi la posto 9.20, sei quasi 9.25. La radio poi torna a mancare un pochettino, ma va benissimo, attenzione, che... ma infatti, aspetta che lo metto in media potenza, ecco qua, così la radio pulita. No, adesso non mi sembra che mi sia cambiato, aspetta che mi chiudo la porta qua, che no, che si offende una brutta, vado a casa, a manetta, sta a pranzo. Vabbè, non lascio, no. Questa è la potenza della radio e queste sono le mie condizioni. Vabbè, avanti Franco di Sorso. Non sai combinare. Nulla, c'ho una mal di schiena e quindi ho... non aggiungo, stavo mettendo un po' di ordine qua perché ho messo in mezzo l'amplificatore che è e adesso si inizia a fare bel tempo. Mi monto la verticale 5 bande così iniziamo a allontanarci un po', a fare anche un po' di HF, ma io sto facendo anche le pure U, lì eravamo a 10 metri, già vabbè, sono proprio in cui non ho martello, purtroppo non si può fare tutto. Vabbè. Colpo uno, colpo all'altro, quando non prende nessuno in yoga, non dai danni, quando non prende nessuno che danno, dai yoga, va bene, è lo stesso. Sì, però stavo parlando col tuo paesano, era in macchina, stavo un cannino sulla RSTA, quindi ogni tanto bisogna fare qualcosa, se no poi si arrugginisce tutto. Vabbè, volevo regolare per radio, però non riesco a capire, vediamo un po' se così, dando le operazioni più di Mickey Game, così, ora, così con un po' più di Mickey Game va meglio. Ma no, non ha migliorato niente. Sempre rauca lei, a volte qualche parola te la mangi, però è un bel rauca lei. Ok, ascoltami, allora c'hai un leggermente di compressione, però non è che brutta, diciamo che è differente, si sente che è differente dalla tua solita radio, capito? Che per dire, se passa la zanzara, la farsa, senti la zanzara, il coso. Però è sempre buona, è che si sente che c'è potenza sotto, capito? Aspetta che la vedo. Ma infatti, c'è potenza, sì, ce n'è troppa. Passi da 9 a 9 più 20 modulato, così è una bomba, però abbassa appena appena l'amplificazione perché adesso si sente anche il cane del vicino di due isolati più avanti. L'amplificazione io non posso abbassare nulla, allora ti ricordo che così, allora così il segnale è 9, così è. Cioè di picchi di modulazione sulle allormare, passi da 9 a 9 più 20 modulato, fatti un goto. Ma se no non ci capiamo, allora è un po' di dare gas. E così invece quanto è il segnale? La radio migliora presto. Così è fisso, il segnale così è fisso 9 più 20. Però il primo passaggio che ti ho ascoltato quando ho acceso, eri 9 e 20 abbondante, però eri sulla tendenza alla saturazione, capito? Alla compressione. Adesso sembra buono, fa vedere. Guarda, va bene, così ho abbassato leggermente l'ingresso. No, dovete tenere conto che questo non è un amplificatore da 4 soldi, è un amplificatore da 27, è un amplificatore che è fatto di 10 metri, quindi sto cercando di farlo andare un po' in 27 per tenerlo un po' alto, capito? Perché era molto fermo. E sto piano piano, giorno per giorno, cercando di aumentare la potenza, però ancora non ho conto di cedere tutta la potenza, così come la radio. Oh Franco, tu che sei più distante, ma meglio di prima. Sì, sì, adesso hai migliorato al 100%, adesso è come prima la radio, come ti ascoltavo sempre. Claudio, confermo, questa è la tua radio. Così come l'ho messa adesso, non so quanto li fanno di ingresso, di cosa, di uscita, così sui 10. Poco fa tornando 50 watt d'ingresso, pensavo fosse già pronto, invece adesso ne è tornando 30 watt, anziché 50, perché ancora le valvole evidentemente non sono assestate bene, mi porta via un po' di modulazione, va bene, quindi mi devo tenere intorno ai 25-30 watt d'ingresso, ancora non posso aumentarlo, va bene. Alla grande, alla grande, si conferma, perfettamente, adesso si di lusso, 25-30 watt, non è troppo d'ingresso. Ah, esiste questo lineare HF, c'ha 100 watt d'ingresso, questo a 80 watt d'ingresso tira fuori quasi un kilowatt, in banda laterale 1 kilowatt 3 e 1 kilowatt 4. Non l'avevo capito prima. C'era 0,100 watt d'ingresso, capito? Però siccome era più di un anno fermo e le valvole le ho montate da poco, che erano tolte, messe, le ho rimesse, bisogna farlo andare piano piano con poco ingresso perché sono le spacchi delle valvole, capito? Si arriva troppa potenza. Quindi adesso piano piano si mette appena in sesto, le do i 50, i 70, gli 80 watt, allora tira fuori 800, 900 watt, adesso ne sta tirando fuori con 25 watt d'ingresso, 30 watt d'ingresso ne sta tirando fuori 300 pieni pieni. Ecco, questa è la bombetta, avanti greco. Franco, California. Ok, ciao Claudio, ciao anche a Franco di Sorso, poi non so che altro ci sia. Me lo date un controllo di segnale per cortesia, grazie. 9 Radio 5 a Sorso. 9 Radio 5, la radio è buona? Sì, sì, bellissima, pulita. Ok, dai, no, sto utilizzando un apparecchietto, lo stavo provando, ve l'ho sistemato, e c'avevo dei fili staccati dal microfono, ogni tanto non usciva. Ok, dai, vi ringrazio, riprendi il clà, dai, riprendo dopo. Via, ciao. Ma come fai a dire che non ho intaccato? Se io te lo stacco, se io te lo stacco con 25 watt, ma se ti fa, guarda lo smetter te lo fa, ma che boh, io quando parlo mi sa che non mi capite, non mi capite, ma voi lo sapete cosa sono, 20 dB tra un passaggio e l'altro, ma questo è il passaggio dell'amplificatore 270-280 watt modulati, questo è sempre amplificatore. Secondo te non aumenta, non aumenta niente. Adesso sì, che si è ammassato. Poco fa no, non l'ho visto ammassare. Ma poco fa stava giocando con le sacche, qua si è passato da 8 portante nuta a 9 più 20. Non aumenta secondo Franco, non è nulla, non è nulla. Non è nulla. Ieri ad Alghero, a Carlo, fermo all'aeroporto. Lui c'è un'antenna piccolina, era vicino agli alberi. Da Santiago 1, radio 5, Santiago 1, radio 5, con la minima potenza. Quando ho inserito sono arrivato 7, non aumentano, sono solo giri, vedi tu fra, non aumentano. E c'è da quando vedo con tutta la potenza invece aumenta, ancora di più. Adesso faccio... No, adesso l'ho notato, che sei sceso a 3, sei sceso di segnale. E... da 8 là in pratica, quasi 8 sì, ma con felino. Adesso sì. Adesso aspetta che piatto lo spezzone che volevo avere, perché tanto sicuramente Franco non mi sta sentendo al sorso, vero? Franco, mi senti a me? Non mi sente Franco, dammi conferma qua. Se non ti ha risposto non ti sente. Sono 5 dB, sono tanti, non sono pochi, si vede la potenza. Da questo passaggio la vedi, è giusto che la vedi, e ti dico che sono neanche 300 watt, 270 watt, ma sfondando con la potenza minima per poter far assestare bene le valvole, poi quando si assestano allora però la potenza che richiede l'amplificatore, allora vedi il segnale che va magari anche oltre il 9 sicuramente. Ma non è un problema, ti facevo solo le prove, ma non interessa fare niente, questo amplificatore mi serve più avanti, quindi sto cercando già di farlo andare. Capito, mi hai fatto? Sì. Ciao, aumenta, è un bel pull, aumenta. Solo che si è abbassato, un bel del radio poco fa. Poco fa, perché ci sono temperature da fare, non è che è giusto, non è un... Un BV 131 lo accende e si è a posto, qua ci sono delle temperature da fare, questo lineare che costa un sacco di soldi, c'è il pratificatore dell'antenna incorporato, c'ha le due potenze, c'ha un sacco di cose, c'ha addirittura anche il display dove ti indica il punto esatto di dove stai radiando, le stazionarie, vabbè. Ok, l'importante è che ci siamo capiti. Già va bene, ottimo per la truppa. La radio è sempre buona, così è, va bene? Sì, la radio va benissimo, se è lui, sempre la matessa. È sempre bella, chiara. Ok, abbiamo trovato il punto giusto allora. Va bene, mentre se la metto invece in love, allora questa posizione anche in potenza alta, quella se scende molto si abbassa la potenza senza toccare l'accordo. Guarda così qua, se va bene, ora. No, non abbassa molto, ma che pelino. Buongiorno a tutti, buona domenica. Vedi che adesso stai andando, questa è la posizione praticamente bassa, perché c'è due posizioni, non vuol volare, c'è due, 8, 7, poi non mi ricordo, comunque due bei bicchieri, sono belle grosse, comunque questa è la potenza minima, va bene? Ciao Luca, ben entrato, avanti. Buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, tondo. Allora, e ora che vuoi fare? Fammi Luca, avanti qua. Anche Lugariello, ciao, buongiorno Lugariello, ben ascoltato. Uiaia, com'è? com'è il tempo? Sta nevicando, sta grandinando. Per il rella. Vai, vai, drogato. Cucumedo. Tanto da te la scegli. Buongiorno a tutti e buona domenica. Con speranza che voi mi ascoltate. Un po' compresso, sì. Un po' compresso, è forte la radio, ma è compressa. Compressa? Non mangio un compresso io, non mangio bicicletta da gonfiano. Sì, poi è agganzato me. Non sono agganzato, sono agganzato, non pari, sono agganzato. Sono agganciato perché sto facendo andare l'amplificatore che devo fare l'accoppiamento delle valvole che le ho montate nuove e quindi bisogna farlo andare. Oh, ciao a tutti che devo mollare, arrivata gente, ciao! Ciao Fra, ciao, ci sentiamo più tardi. Oh, puoi andare a Sagozza! In Falanda, non è indietro, non è a minima potenza, non posso tirare di più, non posso andare molto, da qualche giorno vediamo 100 watt pieni, quindi saranno intorno ai 7-800. 900, adesso sono 250, 300, buono, 300. Sono bianco un attimo. Capo, se non dava le giacca, a voglia. Capo, a me è già pronto il pranzo, ci sentiamo dopo. Molto mentre da te ho pronto rispetto al segnale normale che avevo prima, quanto è? 9.20 sì, come quando io sono agganciato. Allora, così è normale, quanto è? 9.5, 9.10. Capo! E allora già, sta già, così è agganciato, e così è agganciato, la mazzone di varia, già sta andando, eh? Capo, è mio adesso qualche giorno, lo devo accendere pure io. Il mio lo devo accendere, non posso più mi fermo. Gappa gappa, ci accendiamo va. Anche se non lo uso, però l'accendo lo stesso. Ma no, io non ne uso 27, solo che non ho per te e quello devo provare per forza qua, capito? Perché, ti ripeto, ho montato le valvole che quando conserve un amplificatore, la valvola di vittoria, altrimenti fai casino. Allora le ho ripiazzate e adesso piano piano lo sto facendo andare, capito? Tutto qua. Vabbè, vediamo se l'accordo è giusto. Sì, è perfetto. Va bene così. Va bene, Anto, buon pranzo, buon tutto. Allora ci riascoltiamo, ciao. Ciao, risentiamo. Saluto anche a Natalino, ciao Natalino. Ciao Anto. Capo, vuoi mangiare, ciao. Ciao, ciao, io sto pranzando. Vi saluto tutti, là, rimango in QRX, ciao a tutti. Ciao, ciao, Natalino, ci sentiamo. Attaccato al balcone con le antenne della TV, non va bene. Ehi, Claudio, fate, Don Claudio? E via, ho detto che devo fare cosa, allora ci sentiamo dopo. Sì, Claudio, ma ha migliorato confronto a prima? E io, c'è più di 9 adesso. Sì, Claudio, allora, adesso domani se non piove, trovo gli antenni giù in Campagna, la manco con la ringo. Oh, e già va bene allora, Kappa Kappa, va bene. Anche adesso sono stato lui, no? Tu parlo, mica ti fa... non si può parlare. Ehi, Acra, dimmi. Ti ho detto se va bene adesso la radio. Ehi, la radio va bene adesso. Vabbè. Ci sto lavorando piano piano, ti ho intuito, no? Bisogna andare di lì all'amplificatore. Ma che è che va, ragazzo, mi buca la cappotta. Ehi, adesso sei 9:15, ho la radio nitida. Lucida, Acra, perfetta. Il passaggio quando è acceso stava arrivando 9:25, però la compressione si sentiva, logicamente. E io abbasso quanto è 9:20, non cambia niente. Mi interessa farlo andare per essere pronto poi, capito, quando mi serve. Grazie, va bene, va bene. Diciamo, va bene, posizione, 1 kW. Ehi, va bene, la voglia. Va bene sì. Ma la radio, se la mangia o ce l'ho buona la radio, com'è? È un pochino mangiata, ma è comprensibilissima la grande. Sì, allora ci mettiamo a piombo, piano piano, purtroppo il tempo non mi sta aiutando. Ah, sì, e allora io andavo a vedere. Ma il tempo mi fa io, Claudio, come faccio a muovermi? A salire sul tetto, a fare cose, non sono discorsi che si possono fare in questo periodo. Lo sto dicendo, pensavo che avevo finito, io ero così contento, c'ho il giardino, abbiamo un cantiere, dobbiamo dei dubbi, piastrelle, rotoli di catrame, un casino, guarda, non vedo l'ora di finire, mi sono rotto le palle, va bene, dai. Ok ragazzi, a dopo che vado a preparare a mangiare al cane, ciao a tutti. Guarda, adesso ti mando un piccolo video di come ho fatto il piantone della mantova. A Pantaretto, Puglia, a Sabugli. Solo per notare, guarda, lo pieno di sotto, non te ne dico. Le viti marcio, quindi le ho dovuto ammolare, staccare il PL e poi svitare i filetti delle viti che c'erano dentro il PL. Non ti dico quanto la giubbuccio. Sono rifatto a nuovo, tirato a lucido il piantone. È pronto a presentarli lo stilo, i radiali, ho provato a vedere come radia è separata, se va bene. Non vedo l'ora, guarda. Lo so, sorry, tante cose è un casino. Vabbè, dai, ci aggiorniamo dopo, ragazzi. Apro la possibilità di il video che ti mando qua. Ehi, se arriva già l'ho pronto, ti preoccupare, già lo guardiamo. Ok. A dopo, ciao. Ciao, qua. Luca Rieri. Luca Rieri. Sto giù rientrato che era ritrebu. Senti compare, sono vecchio, mammi. Sto facendo le ore un po'. Anche mi sono piscizzato, poi mi sono appisolato verso le 5. Così. Mi sono svegliato poco fa. Ah, fino a bugia. Ho fatto colazione e mi sono buttato da cucca. Che è bello. Fai bene. Almeno sempre tutta notte in giro, sì. Buongiorno, Speranza che tu lo ascolti, cammino. Pompetta. Segnale 7, sì, radio 5, al manco ti intendo con il caparecchio. Ciao anche a... beh, sentito Luca. E io ci arrivo a 8, prova. Sì, 9, sì, la voglia. Tante meglio funzionava, che non è andata la gabicchiuria, se no guai, questa è puntata verso il sorso, perché Franco di sorso mi arriva un bel forte. Dove sei? Alla Croce? Sì, via. E Franco c'era di fronte in pratica, ora ti credo, quindi, a voglia, basta e avanza. Che è, frate, senti, ripeti tu, vita mia, che è, Salvedo sta preparando il pranzo, se no ci lo butta fuori di casa la moglie. Allora? Cazzo, c'è un freddo qua. Questa mattina, a casa in casa, che erano una cosa allucinante, boh. piedi, mi sono fatto tutto a piedi, mi sono fatto... Perché c'avevo la vergogna di salire in tram, Luca. C'avevo questa tosse, non sai quando ti viene dato, sei entrata, se c'è il controllore, minimo ti dici, Alco, fa la cosa, avviati. Quanto dopo senti l'animaccia lunga, allora, io gli aggano. Tu ho contattato il tecnico della lingua, ho parlato al telefono con il tecnico della lingua, della LEM. Ah, della lingua LEM. E poi cosa ti ha detto? Guarda, purtroppo con le condizioni che sono, così non può giorno non può radiare, sono a me. Guarda, cosa faccio l'altro malattia con i vetri, gli antenne del televisore, tutto quanto, me lo so, lascia perdere. Allora io ho detto, guarda, io adesso la provo in campagna, tu ci risentiremo, non c'è problema, mi ricontatti, c'è il numero di telefono, mi ricontatti, sono sicuro che lì si lasciano in campagna, là fa 2 metri dal suolo, dal terreno, con l'antenna deve radiare per forza, perché l'ha fatto fare la prova, l'antenna è cortocircuitata, perché è nata così, è così. Ho capito. Vedi come mettete una boomerang a te, fai prima, capito? A me non hai preso nessun problema, ti piace la boomerang e da lì già esci. Una boomerang, ci sono anche quelle boomerang che hanno la possibilità di radiare solo, ne hanno due, quindi sei più tranquillo. O se no ti metti, cosa ti posso dire, un tiro di paletto, ti prendi una Grand Plane, ti metti due radiali, fatto 13. Paparrogero, hola, la valvolita sta là, fatale, 110, cambi. Anch'io sto pompando, se per questo, ne ho 90 in questo momento. 90 watt. Aspetta. Eia, 90, 95. Santiago 9 qua, Santiago 9. E io quanto sto arrivando? 7 se non mi sbaglio, fai. Sei 7 di segnale, è radio 5. Sei a posto di quell'antenna che ci hai messo di macchina, ti piazzi quello sì dove ti ho detto io, mi sa che esci molto meglio. Quando ne hai voglia, vieni, te lo prendi e te lo piazzi. Ti metti il PL e sta andando. Oh, va, papà, io sono. Allora, come arrivo, va bene? No, non c'è problemi. Poco fa non stavo parlando, però i 9:20, Adesso sei salito, sarà bravo. Scaldando la mutanda, sai. A quello lì già li faccio pagare lo smitter io. Ah, comunque a Cattarino vuole lo smitter nuovo, lì. Ehi, a Cattarì. E cos'è? Un pendile. Che cosa? So Gazzero, cosa è che siamo troppo vicini? Mi sta arrivando a fondo schiena qua. Ma parlo se so forte, tu. E lui è liscio, tu sei avanzato. Capa, no, stavo provando un po' perché non puoi il tempo fermo. E non è malattia più vicino a te. Va parlo, ce lo vai. Non mi ha ascoltato qua, guarda, quanto numero di vanno avanti, chi cambio. Qua in 4 smitta si è a 9:30. La parrocchio, sì, però quando si parlava di infanzia, poco fa so se mi sentiva. Mi ero trappiando, ma il tempo era da una parte, c'è provento, provando, e quindi si sta rimandando di giorno in giorno. Comunque, la valvolina sta andando bene, va. Cappa, ma cosa sei? C'è quella lì? È la Mantova, la voglio ripiazzare. La Mantova ha finito tutto, l'ho rifatto tutto il piantone, con l'avvolgimento, tutto il coso radiale, il PL, è pronta a collaudare. Quando scendono in campagna, guarda, se ne sceso oggi, in campagna mi hanno fatto un po' di carne arrosto, la mia famiglia, ma c'è brutto tempo, quindi cosa me la fa? Ma la Ringo è risolto. La Ringo ha parlato direttamente con il tecnico campagna anche a 2 litri da terra, 2 litri sono andato all'autorolo, però al campo libero ho detto non è che la terra funziona bene, e infatti non ce la farò, detto, ci risentiremo in questi giorni. Cappa, io c'ho sul tetto, logico che va bene. La parroggio, vabbè, sono libera a 300 gradi. Guarda la differenza, ci vede la differenza ora. Papa, un bene sono abbassato, cambio. No, qua non me ne accorgo qua perché c'è sempre 9.30. La parroggio, va. Vabbè, in linea d'aria, io qua sono in alto, se sei lì che ce l'ho sotto, quindi non sono problemi, dai. La distanza che comunque la si vede, credo che se ne accorge, che cambio. Già lo so. Fondo scala io. Sì, sul 3. Non ci sono problemi, anche Natalino siete forti. Luca è leggermente apparato più basso di voi, però siamo lì, dai, siete tutti e tre segnalini. Ah, vabbè. E Luca, quella bumera fa miracoli, fa una buccia d'orra arrivi. No, 1.3 di stazionaria, è scesa. Sei riuscito, ma la pena è passato a Natalino, e non me ne siete accorti, avete parlato in due, ma con grandi difficoltà e c'è anche qualche vattina sotto, Natalino è liscio. Aspetta. Allora. E vai, coccomane. No. Vai, provate, aiuto. 1, 2, 3, prova. Sto. Aspetta, chi c'ha due? Che non posso salire di più, se no, perché c'è un po' parecchia umidità. Se no, avete invito. Vabbè, ma la Natalino è più vicino a te. Non c'è nulla da fare. No, il passaggio di prima l'hai passato tu. Allora, chi c'ha due? Per forza, sei malefico quell'Antonio, è malefico, è sempre attaccato con la stufetta sempre, ci ha preso, non ha sentito che c'è l'umidità. Cappa. Guarda per se passi adesso, guarda per vedere. Mi che aumento. Nulla. No, nulla, se non parlate assieme non lo so. 1, 2, 3, prova, sei massima potenza. L'ammazzo. Siete precisi, dai. Non sento la brutta. È un ciambozzo, e poi non posso alzare sulle stazionali, c'è una mala antenna piena d'acqua. Qua, ma ne è di un casino. Antonio Momone, io ne ho un casino, che se ne va tutti di casa coppano. Cappa, e che è passa Santa Maria di Pisa? E se lui arriva a forte, se lui arriva sul 3. No, tra me e Natalino. Natalino arriva a 9 qua. Ma c'è l'antenna di mammo, c'è Natalino. E aspetta quando più. Vabbè! E ce l'ho io il tanto, drogato! Natalino 9.10, ma si vede che con l'antenna c'ha problemi. E io quanto sono? Tu sei sul 3, tra il più e il 3. C'ho problemi, ma c'ho la Game Master qua, già arrivata. Aspetta che fa un bel po' di tempo buono, che la mettiamo qualche metro più su, e poi anche a 0 watt ti ammazzo. Vai, è un trudio, c'è Game Master. Già è un trudio, via. A corire, Antonio. 9.30 sì qua a me. Oh, Luca, tu arriva più forte giù da te. Antone, questo bombolino l'ho visto che si stava suscitando il gas dalla bombola. Cos'è Salvi? Salvi, cosa hai detto? Arriva più forte. Mi sembra la giocata, Lascia giocare. Oh Luca, ma vedo che si suscita il gas delle bombole, bombolino. Ho visto io sotto il ponte, Natalia, e allora, con coso era? In due, lui stava sniffando la gas, e quello là stava facendo il vaccino, insieme a lui. Con Falcone era. Oh, basta, dai, facciamo i bravi. Sì, se no la bella luce la paghi tu, e noi gliel'ho pagunuta. Anche non è consumo. Sì, alla fine poi consumano poco quei cosi lì, dai. Sì, no. No, vabbè, questo già consuma poco. E che mi dà rogliazzata che andare a massima potenza. Ah, me lo dai, Bobbulì, che mi serve la, il condensatore variabile di quello lì. Ma non per penso ne manco. Dai, smonta, tanto tu non te ne fai nulla. Wow, non cambi tutto, ma non mi tocca ghiccio. Sì, quanto sì, visto là. Lei mi ha mentito. Io per te avrei fatto quello e altro, e tu non mi dai il condensatore variabile, che mi devi costruire un'antenna. Ah, il condensatore variabile. E ce lo si tocca dai nonchi, sta scherzando, sai. Ma manco per idea, Natale. Questo per me è l'arma a difesa. Mica stavo scherzando, Miantu. Già mi serve il condensatore variabile, perché mi devo fare un'antenna per ascoltare. Chiappa. Ehi, cercalo. No, mi dispiace, ma questo non si tocca. E ti pare che ti facevo smontare l'Alfa Lima per darmi il condensatore variabile? Mi dà Claudio, adesso vado e glieli rubo. E così non puoi più parlare. Ah, ho detto, sicuramente sono molto, molto più basso, ho abbassato parecchio di potenza. E io sono a zero, non posso salire che c'è un'antenna piena d'acqua, mi manda in corto la bobina, mi servono le stazionarie anche a due, mamme. In Aramara, ma con la ringomia si comporta così. Ma qua si piena, dove c'è la bobina, si piena d'acqua e me la manda in corto, non hai capito? Adesso si è asciugata un po', riesci a vedere. E perché stai abbaiando tu? Mi salgono i picchi di modulazione. Drogato! Ma cosa si asciuga, papà? Uno fondeva, fai un piano su, cosa si asciuga? A 1,5 è già salita. No, ho passato parecchio. Oh, no, se no, via. Quando stanno non spingo più di tanto. E la poco fa già gli ho fatto la spinta al massimo. Sono tutto a fuoco. Hola, c'è tu dici. Sì, abbassa, che troppo mi distaccia. Quanto sei di stazionaria? A 1,7. Aspetta un attimo. Tu? Sì, scendi un po' di potenza. Cambio, con pareri di obbedire di cambio. Tu, mamma, non mi fai nulla. Vai su. Adesso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sì, leggermente sotto va bene, sì, così va benissimo. Va bene. Io ti sto arrivando, sì, mi senti. Cava, dai. No, sto adattando un microfono, stavo provando, capito? Gli ho fatto le connessioni e volevo sapere se stavo scendo bene. Arrogio, forte chiasso qua, forte chiasso, cambio. Che bella, dai, lo chiudo, dai, riprende. Natali. No, fra. E dimmi, sapevi, cazzo, non le vai lì di farendi, no? Senti. Io prendo forse sta. Sta per bene, sono uscito fuori un terrazzo, io ce l'ho qua un terrazzo. Aspetta, prendo un bel bene. Cacca. Ora Natali, l'ho adattato quel microfono, come va? Alla grande. Poi dice che non ci penso a te, mi. L'ho tutto autocostruito, quindi. Ma sono 9,40, cambio. 9,40 tu, ma quando arriva tu, cosa sei ritorno più tardi, ciao. Saluto a tutti, buona domenica. Ho portato i palmi, ci abbiamo un antenna a 50 palmi. Ho fatto 48, roba del genere. Se tu con un altro cavallo io non mi vado di più, perché...